terzo anello ad alta voce. Lessico familiare di Natalia Ginzburg. Balbo non correggeva mai le bozze. Diceva: «Non sono capace di correggere le bozze, vado troppo adagio, non è colpa mia». Non leggeva mai un libro per intero, ne leggeva qualche frase qua e là e subito s'alzava per andare a parlarne a qualcuno, perché bastava un niente a sollecitarlo, a farlo fermentare, a mettere in moto il suo pensiero che subito correva, e lui era là fino alle 9 di sera, parlando fra i tavoli, perché non aveva orari, non si ricordava mai di andare a pranzo. Finché i tavoli si facevano vuoti, l'ufficio deserto. Allora guardava l'orologio, trasaliva, si infilava il cappotto e metteva il suo cappello verde ben calcato sulla fronte. Se ne andava giù per il corso Re Umberto, piccolo, dritto, con la sua cartella sotto il braccio, e si fermava però a guardare le motociclette e le motorette nei posteggi, perché aveva una grande curiosità di tutte le macchine e per le motociclette una tenerezza speciale. Pavese diceva di lui: «Ma perché deve sempre parlare mentre gli altri lavorano?» E l'editore diceva: «Lascialo in pace». L'editore aveva appeso alla parete nella sua stanza un ritrattino di leone, col capo un pochino, gli occhiali bassi sul naso, la folta capigliatura nera, la profonda fossetta nelle guance, la mano femminea. Leone era morto in carcere, nel braccio tedesco delle carceri di Regina Coeli, a Roma, durante l'occupazione tedesca, un gelido febbraio. Io non li avevo mai rivisti tutti e tre insieme, Leone, l'editore e Pavese, dopo quella primavera che i tedeschi prendevano la Francia, se non una volta sola, che eravamo venuti Leone ed io dal confino, dove l'avevano mandato subito dopo che era entrata in guerra l'Italia. Eravamo venuti dal confino con un permesso di pochi giorni, e allora eravamo stati spesso a cena insieme, noi, Pavese e l'editore, con altri che cominciavano a diventare nella casa editrice importanti, altra gente venuta da Milano e da Roma con progetti e idee. Non Balbo, perché allora Balbo era in guerra, sul fronte albanese. Pavese non parlava quasi mai di Leone. Non amava parlare degli assenti e dei morti. Lo diceva. Diceva: «Quando uno se ne va via o muore, io cerco di non pensarci, perché non mi piace soffrire». Tuttavia, forse a volte soffriva per averlo perduto. Era stato il suo migliore amico. Forse annoverava quella perdita fra le cose che lo straziavano. E certo era incapace di risparmiarsi alla sofferenza, cadendo nelle più acerbe e crudeli sofferenze ogni volta che si innamorava. L'amore lo coglieva come un travaglio di febbre. Durava un anno, due anni, e poi ne era guarito, ma stralunato e stremato, come chi si rialza dopo una malattia grave. Quella primavera, l'ultima primavera che Leone aveva lavorato stabilmente nella casa editrice, quando i tedeschi prendevano la Francia e in Italia si aspettava la guerra, quella primavera sembrava sempre più lontana. Anche la guerra, a poco, si faceva lontana. C'erano state per molto tempo nella casa editrice stufe di mattoni, quando il riscaldamento non funzionava per via della guerra. Poi furono aggiustate le caldaie dei termosifoni, ma quelle stufe ancora per lungo tempo restarono. Poi l'editore le fece portare via. C'erano nelle stanze tutti i manoscritti ammucchiati, in disordine, non essendovi abbastanza scaffali. Infine vennero fatti scaffali svedesi, con assi intercambiabili, che arrivavano fino al soffitto. Nel corridoio, al fondo, fu dipinta una parete di nero e vi vennero appese con puntine da disegno stampe e riproduzioni di quadri. Poi furono buttate via le puntine da disegno e si appesero, in lucide cornici, veri quadri. Thank you. Mio padre, lui, era nel Belgio durante l'invasione tedesca. Rimasi a Liegi fino all'ultimo a lavorare nel suo istituto, incredulo che arrivassero i tedeschi così presto, perché si ricordava dell'altra guerra, quando i tedeschi erano rimasti fermi alle porte di Liegi per 15 giorni. Ora però i tedeschi stavano per entrare in città e infine lui si decise a chiudere l'istituto ormai deserto e ad andarsene. E se ne andò a Ostenda, un po' a piedi, un po' con mezzi di fortuna, nella folla che invadeva le strade. A Ostenda fu raccolto da un'ambulanza della Croce Rossa, dove c'era qualcuno che l'aveva riconosciuto. Gli fecero indossare un camice e andò con quell'autoambulanza fino a Boulogne. Qui l'autoambulanza fu fatta prigioniera dai tedeschi. Mio padre andò a presentarsi ai tedeschi, disse il suo nome. Quei tedeschi non fecero caso al suo nome, che era inconfondibilmente un nome ebreo, e gli chiesero cosa intendesse fare. Lui rispose che intendeva ritornare a Liegi. Lo riportarono là. A Liegi rimase ancora un anno. Era solo, non essendovi più nessuno all'istituto quell'anno, neppure il suo allievo e amico Chevremont. Gli fu poi consigliato di tornare in Italia, e così lui tornò in Italia da mia madre, a Torino. Rimasero lui e mia madre a Torino finché i bombardamenti danneggiarono la casa. A Torino, nei bombardamenti, lui non voleva mai scendere in cantina. Mia madre ogni volta doveva scongiurarlo di scendere e gli diceva che se lui non scendeva non sarebbe scesa neppure lei. «Se impiezzi», lui diceva nelle scale, «tanto se crolla la casa, crolla anche la cantina, di certo. Non c'è mica sicurezza in cantina, è un sempiezzo». Poi sfollarono a Ivrea. Venne l'armistizio e mia madre si trovava in quei giorni a Firenze e lui le mandò a dire di non muoversi. Lui rimase a Ivrea nella casa di una zia della Piera, sfollata altrove. Vennero a dirgli di nascondersi perché i tedeschi stavano cercando e prendendo gli ebrei. Si nascose in campagna, in una casa vuota che gli amici gli avevano ceduto, e aveva infine acconsentito a farsi fare una carta d'identità falsa nella quale si chiamava Giuseppe Lovisatto. Quando andava a far visita a conoscenti e la donna che apriva la porta gli chiedeva chi doveva annunciare, lui diceva però il suo vero nome, diceva Levi, cioè Lovisatto. Poi lo avvisarono che era stato riconosciuto e se ne andò a Firenze. Rimasero a Firenze mio padre e mia madre finché non venne liberato il nord. A Firenze si trovava poco da mangiare e diceva mia madre alla fine del pranzo, dando ai miei bambini una mela per uno, ai piccoli una mela, ai grandi il diavolo che li pela. E raccontava della Grassi che nell'altra guerra ogni sera prendeva una noce e la divideva in quattro. «Una noce, Lidia!» E ne dava uno spicchio a ciascuno, ai suoi quattro figli, Erika, Dina, Clara e Franz. Mia madre, quando io e Leone vivevamo in Abruzzo, al confino, le piaceva molto venire a trovarci. Andava anche a trovare Alberto, che era poco lontano, a Rocca di Mezzo, e confrontava un paese con l'altro, e declamava la figlia di Iorio che le veniva in mente in quei luoghi. Da noi, siccome non avevamo posto in casa, dormiva all'albergo, l'unico albergo del paese, poche stanze raggruppate intorno a una cucina, con un pergolato, un orto e una terrazza. E alle spalle i campi e le colline, basse, spoglie, battute dal vento. Le proprietarie dell'albergo, madre e figlia, erano diventate nostre amiche, e noi usavamo passare le giornate, vi fosse o no mia madre, in quella cucina e su quella terrazza. Si commentava in quella cucina, nelle sere invernali o sulla terrazza d'estate, l'intero paese e gli internati che erano venuti con la guerra, come noi, a mescolarsi alla vita del paese, dividendone le fortune e i problemi. Mia madre, come noi, aveva imparato i soprannomi che usavano dare nel paese agli internati e ai paesani. Gli internati erano molti e ce n'erano di ricchi e di poverissimi. E i ricchi mangiavano meglio, compravano farina e pane alla borsa nera, ma a parte il mangiare, facevano la stessa vita dei poveri, sedendo a volte nella cucina o sulla terrazza dell'albergo, a volte nella bottega di Ciancaglini, che era un merciaio. C'erano gli Amodai, ricchi commercianti di calze di Belgrado, un calzolaio di Fiume, un prete di Zara, un dentista, e due fratelli ebrei tedeschi, l'uno maestro di ballo e l'altro filatelico, chiamati Bernardo e Willy. C'era poi una vecchia olandese pazza, che in paese chiamavano Stinky Leggeri, perché aveva le caviglie magre, e ancora tanti altri. Stinky Leggeri aveva pubblicato negli anni precedenti alla guerra volumi di poesia in lode di Mussolini. «Ho scritto versi per Mussolini, che sbaglio!» diceva mia madre incontrandola per la strada e alzava al cielo le sue lunghe mani calzate di guanti bianchi alla moschettiera che aveva ricevuto in regalo da non so che associazione per i profughi ebrei. L'intero giorno Stinky Leggeri percorreva la strada avanti e indietro, camminando allucinata e fermandosi a parlare con la gente, alla quale raccontava, alzando al cielo le mani guantate, le sue disgrazie. Tutti gli internati camminavano così, avanti e indietro, facevano e rifacevano 100 volte al giorno lo stesso percorso, perché gli era proibito addentrarsi nella campagna. «Ti ricordi la Stinky Leggeri? Che fine avrà fatto?» mi diceva mia madre molti anni più tardi. Mia madre, quando veniva in Abruzzo a trovarci, portava sempre con sé un tab, perché là non esistevano bagni, e la sua costante preoccupazione era poter fare in qualche modo il bagno al mattino. Ne aveva portato uno anche a noi, e mi faceva lavare i bambini più volte nella giornata, perché mio padre, in ogni lettera che scriveva, raccomandava di lavarli moltissimo, trattandosi di un paese primitivo e senza norme igieniche. E una donna, che allora avevamo, diceva con aria disgustata, quando vedeva che lavavamo i bambini, «Son puliti come loro, li stanno sempre a lavà». Questa donna, grossa, vestita di nero ormai sulla cinquantina, aveva ancora vivi suo padre e sua madre e li chiamava quel vecchio e quella vecchia. La sera, prima di andarsene, radunava in un fagotto cartocci di zucchero e di caffè e si metteva sotto il braccio una bottiglia di vino. «Permettete? Porto qualcosa a quella vecchia. Porto un po' di vino a quel vecchio, che gli piace il vino». Alberto lo trasferirono in un luogo di confino più a nord. Era considerato il trasferimento al nord una buona cosa. Chi veniva trasferito al nord con ogni probabilità sarebbe stato presto lasciato libero. Facevamo anche noi di tanto in tanto qualche richiesta per essere trasferiti al nord, ma avremmo lasciato l'Abruzzo con dispiacere, come l'avevano lasciato con dispiacere Miranda e Alberto, i quali trovavano stupido il loro nuovo confino nel canavese. Comunque le nostre richieste d'un trasferimento caddero inascoltate. Mio padre, anche lui, veniva a volte a trovarci. Quel paese lo trovava sporco, gli ricordava l'India. «È come l'India», diceva. «Lo sporco che c'è in India non si può immaginare, lo sporco che ho visto a Calcutta, a Bombay!» Ed era tutto contento di parlare dell'India, si illuminava, dominando Calcutta, d'un vivo piacere. Quando nacque là mia figlia Alessandra, mia madre rimase a lungo con noi, non le andava di ripartire. Era l'estate del 43. Si sperava in una fine prossima della guerra. Fu un periodo sereno e furono gli ultimi mesi che passavamo insieme, Leone ed io. Mia madre infine partì e io andai ad accompagnarla ad Aquila e mentre aspettavamo la corriera sulla piazza, io avevo la sensazione di prepararmi a un lungo distacco. Avevo, anzi, la confusa sensazione di non doverla rivedere mai più. Venne poi il 25 luglio e Leone lasciò il confine e andò a Roma. Io restai ancora là. C'era là un prato che mia madre chiamava del cavallo morto perché vi avevamo trovato un cavallo morto un mattino. Usavo andare su quel prato ogni giorno coi bambini. Sentivo la mancanza di Leone e di mia madre e quel prato, dove ero stata tante volte con loro, mi metteva una grande melanconia. Avevo l'animo pieno dei più tristi presentimenti. Lungo la strada polverosa fra le colline bruciate dal sole estivo passava e ripassava Stinchi Leggeri col suo passo storto e veloce, col suo cappello di paglia, e i fratelli Bernardo e Villi vestiti di lunghi paltò a martingala regalati da quell'associazione ebraica e che portavano anche in piena estate avendo abiti rotti. Salvo Leone, gli internati erano rimasti là perché non sapevano dove andare. Poi venne l'armistizio, la breve esultanza e il delirio dell'armistizio. E poi, due giorni dopo, i tedeschi. Sulla strada correvano camion tedeschi, le colline e il paese erano pieni di soldati. C'erano soldati nell'albergo, sulla terrazza, sotto il pergolato e in cucina. Il paese era impietrito dalla paura. Sempre portavo i bambini sul prato del cavallo morto e quando passavano gli aeroplani ci buttavamo nell'erba. Incontravo sempre sulla strada gli altri internati e ci interrogavamo con lo sguardo in silenzio, chiedendoci dove andare e che cosa fare. Ricevetti una lettera di mia madre. Era anche lei spaventata e non sapeva come aiutarmi. Pensai allora, per la prima volta nella mia vita, che non c'era per me protezione possibile, che dovevo sbrogliarmela da sola. Capii che c'era sempre stata in me, nel mio affetto per mia madre, la sensazione che lei m'avrebbe nelle disgrazie, protetto e difeso. Ma ora restava in me l'affetto soltanto, e ogni richiesta e attesa di protezione era da quell'affetto scomparsa, e anzi pensavo che forse avrei dovuto io in avvenire proteggerla e difenderla, perché era ormai mia madre molto vecchia, avvilita e indifesa. Partii dal paese il 1° novembre. Avevo avuto da Leone una lettera, portata a mia mano da una persona venuta da Roma, in cui mi diceva di lasciare il paese immediatamente, perché là era difficile nascondersi e i tedeschi ci avrebbero individuato e portato via. S'erano nascosti ora, qua e là nella campagna o nelle città più vicine, anche gli altri internati. Mi venne in aiuto la gente del paese. Si concertarono fra loro e mi aiutarono tutti. La proprietaria dell'albergo, che aveva tedeschi accampati nelle poche stanze e seduti in cucina attorno al fuoco, là dove tante volte eravamo stati seduti noi quietamente, raccontò a quei soldati che era una sfollata di Napoli, sua parente, che avevo perduto le carte nei bombardamenti e che dovevo raggiungere Roma. Camion tedeschi andavano a Roma ogni giorno. Così salii su uno di quei camion una mattina e la gente venne a baciare i miei bambini che avevano visto crescere. E ci si disse addio. Arrivata a Roma, tirai il fiato e credetti che sarebbe cominciato per noi un tempo felice. Non avevo molti elementi per crederlo, ma lo credetti. Avevamo un alloggio nei dintorni di Piazza Bologna. Leone dirigeva un giornale clandestino ed era sempre fuori casa. Lo arrestarono 20 giorni dopo il nostro arrivo e non lo rividi mai più. Mi ritrovai con mia madre a Firenze. Aveva sempre, nelle disgrazie, un gran freddo e si ravviluppava nel suo scialle. Non scambiammo sulla morte di Leone molte parole. Lei gli aveva voluto molto bene, ma non amava parlare dei morti e la sua costante preoccupazione era sempre lavare, pettinare e tenere ben caldi i bambini. «Ti ricordi la Stinchi Leggeri, Villi?» diceva. «Cosa ne sarà successo?» Stinchi Leggeri, come seppi più tardi, era morta di polmonite in un cascinale di contadini. Gli Amodai, Bernardo e Villi saranno nascosti ad Aquila, ma altri internati vennero presi, ammanettati e caricati su un camion e scomparvero nella polvere della strada. Thank you. Anna Bonaiuto ha letto Lessico familiare di Natalia Ginzburg. Regia di Anna Antonelli e Lorenzo Pavolini. A cura di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it